ma non fa, è una, ma guarda che mia moglie non è mia moglie, non è mia moglie, è una signora che ha una sua testa, una sua politica e una sua esistenza. La Zanzara. Padre Eterno quando fece il mondo lo disegnò quadretto, però gli venne tondo. E poi sbagliò dell'uomo il modellino. Il primo venne dritto, ma l'altro un po' cretino. Se tu sei cretino lo sai solo tu, quando uno è scemo pure nel Perù. Il padre era notte, era tardi, erano stanchi. Fece il nostro stato ed erano 800 cittadini. Ma combattevano l'uno contro l'altro. Stiamo parlando di Lucia Annunziata e Giuliano Ferrara. Ma partiamo dal momento clou. Il momento clou, quando la signora Lucia Annunziata, giornalista, conduttrice, direttore, direttrice, chiamatela come volete, dell'Huffington Post, grande esperta di America, dà del cretino a Giuliano Ferrara e dice: studia, studia, studia, capra, capra, capra. Almeno di clamorose sorprese in alcuni degli stati che noi reputiamo sicuri. Chissà per Obama. L'ha annunziata forse su questo. Lucia Annunziata. Mi permetto intanto, buonasera, mi permetto intanto di dire a Giuliano che è un perfetto cretino. Ma perché? No, ma io... no, ma perché scusa, perfetto? Ma io non capisco perché Giuliano, perfetto. Guarda, queste tue battute amicizia sono insopportabili, ma non me ne frega niente di un'amicizia fatta come questa, va bene? Ma come sarebbe a dire, ma te la prendi veramente? Ho dato finora... Ma sì che me la prendo, no, perché il tuo problema è quello scusa, di aspettare soltanto che... Vinca Romney, nulla, ma se vuoi sentire che cosa sta succedendo effettivamente in America, devi fare i compiti a casa, quindi zitto e aspetta. Ma che era successo di così grave alla fine? Cosa era accaduto? Beh, prendiamo una frase sola di Ferrara. L'Annunziata può darci qualche falsa notizia. Mancano, del resto, 5 minuti ad aggiudicare. Secondo me l'Annunziata potrebbe darci un'altra falsa notizia. No, dai, adesso non cominciamo a seminare. Ma no, non è per la zizzania. È perché un pochino contee, sì. Ma no, queste contee che volano e che... Vabbè, ma scherzava, su, cara Lucia, scherzava il signor Ferrara, scherzava. Parenzo, buonasera. Ma scusami, ma la battuta più bella è quella di Mentana, che si sente in sottofondo, sì, quando Lucia dice sei un perfetto cretino, e Mentana dice perché perfetto. È bellissimo. Ma ne sono successe veramente di tutti i colori nella nottata americana. I politici, good morning America, politici, goodbye, sì, vabbè, politici italiani che sproloquiavano, bravo, politici italiani, bravo, che ne dicevano di tutti i colori. Il bravo grande show è stato anche del mitico Antonio Martino. Il mitico Antonio Martino, sì, sempre sia lodato, grande liberista del PDL, o almeno di quello che resta del PDL. Sentite, a un certo punto, quando se la prende con Renzi, non mi dare dello stalinista. Con tutto il rispetto, non può permettersi accusare me di stalinismo quante divisioni ha il Papa. Se ci fosse una guerra, io preferirei essere difeso dai milizi americani, non dalle guardie svizzere del Papa. Matteo Renzi, ma che sta di? Poi a un certo punto, stalinista, dillo a tua sorella. Replica di Renzi. Ecco, volutamente che a Martino, ah, per questa visione di liberale, Renzi, punto a capo. Rischiava di poter essere annoverato. Tu non lo puoi chiamare stalinista, Martino, punto a capo. Però in realtà con tutto stalinista lo dici a tua sorella, non a me, Matteo Renzi. Tutto questo perché Martino parlava dell'importanza dei soldati, dei militari, di avere un esercito ben fornito, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto dà a Sarkozy del nano maledetto. Senti, lo stesso Martino, nano maledetto. Vabbè, siamo al top, eh. La destra italiana quasi compattamente ha tifato per Hollande durante le elezioni francesi. Anche il suo giornale. Anche la destra francese, se per ma questo. Sì, no, no, ma... Anche, ma non... anche Marine Le Pen ha fatto votare per Hollande. Scusa. Perché Sarkozy era inesportabile, non era destra sinistra. Sì, no. E che Sarkozy era un nano maledetto che non è stato eletto, gliel'avevo detto. Un nano maledetto che non è stato eletto, gliel'avevo detto. Fa pure rima, eh? Cretino. Questa è la Zanzara 800 24 00 24. Tremonti amico mio, le mie parole sono quelle di Obama, non voglio dire che mi hanno copiato, senti, strafalcioni, no. Follie dei politici italiani sulle elezioni in America. Stavo facendo le prove per il movimento nuovo, le prove grafiche e di parole. Devo dire, non voglio dire che i democratici hanno copiato, ma io ho registrato in Italia, Italia su Italia, avanti insieme. E le formule sono quelle di Obama. Avanti e insieme. E questo è indicativo. Ma indicativo cosa? Ma di cosa? Ma indicativo come? Di che? Ma no, poi ha detto ho registrato delle parole, no? Come se uno registra, però è libertà. E dice sì, ho capito, è libertà. E ho capito, però... E poi indicativo di che? Di cosa è indicativo? No, ma che parole ha registrato? Ma poi sono due parole talmente generiche. La Fornero, senti, però anche i tecnici ci mettono del loro. La Fornero, trovo gioia nel mio orto. E chi se ne frega? Come diceva Obama, le mie due ore di respiro sono quando io riesco ad andare nel prato, in fondo al prato ci abbiamo insieme a mia figlia un piccolo orto e coltiviamo qualcosa che non viene regolarmente mai, però è fonte di grande, grandissima soddisfazione personale, oserei dire di non solo di rilassamento ma anche proprio di gioia. Ti rendi conto o no? Le carotine del ministro Fornero nel suo orto, le carotine. C'è anche Farinetti, il nostro amico Farinetti, mentre c'è già un ospite che si scalda. No, che ha qui. Detto Farinetti? Beh, detto? Il mitico Farinetti di Italy è stato anche nostro ospite, però insomma, senti perché fa il tifo per Obama, eh? Senti perché ha fatto il tifo per Obama, perché ormai è finita. Senti, senti. Nel mio campo dell'agroalimentare, noi stiamo combattendo per riuscire a importare più merce, più eccellenza agroalimentare negli Stati Uniti. E le nostre grandi diplomazie, i nostri ministeri dell'agricoltura, i nostri ministeri degli esteri, in tutti questi anni, non sono riusciti, per esempio, a ottenere di importare il culatello di Zibello, Martino. A me interessava quello. Le dico e chiudo con un assurdo, secondo me sarà più facile ottenere di esportare il culatello di Zibello con Obama che non con Rome. Va bene. I grandi problemi di Farinetti. Beh, ma su questo ha ragione, però. Ma dai, su, di che parliamo? No, di che parliamo? La questione della ma vita è con noi, all'estero. Ma è con noi, sì, va bene. Ma è con noi il mitico intramontabile da Bruxelles, Marione Borghezio, buonasera. Buona Padania. Non si sente non nulla. Non si sente niente. Prendi il telefono in mano, togliti dal viva voce. Sognavo pronto, buona Padania a tutti. Eccoci qua. Purtroppo ora si sente. Come stai? Sono qui con la bandiera sudista. Come con la bandiera sudista? Ero pronto a esporla se avesse vinto il caro Mitt. Ma ho capito, ma Mitt non era a favore dei sudisti, però, il signor Mitt. No, ma il suo elettorato sì. Lui è così un po' moscetto. Sì. Però dietro di lui c'era tutto... tutta l'America profonda. E invece ha vinto Obama. E invece ha vinto il signor Obama. Obama. Ormai l'America è meticcia, quindi ci sono scelto uno dei loro, quindi è multiraziale, ha vinto questa America qua, che mi sta un po' sul cazzo, ho detto questo, usare un termine diplomatico e raffinato. Assolutamente, sempre senza essere accusato di razzismo, senza ovviamente. Essere accusato di essere anti Obama, naturalmente. No, che poi è un bravo ragazzo, si è fatto da sé, naturalmente sì. Con l'appoggio delle società segrete, dei vari Bilderberg, eccetera. Pure lui Bilderberg. Oggi, cioè perché siamo di nuovo in situazione un po' come era per Clinton, no? Un emerito coglione che improvvisamente diventa un grande personaggio. Ah, dici, dici. Era un avvocaticchio che si occupava dei diritti dei neri, di cui che non lo cagava nessuno, e poi improvvisamente diventa un personaggio importante e si è portato il sacco sul piedestallo, per fare i burattini, evidentemente, di altri interessi delle lobby. Sì, che certo. Senti una cosa, che dall'altra parte non ci fossero le lobby. No, vabbè, questo è però, che... però diciamo dall'altra parte c'era, si vedeva emergere dietro, diciamo così, alla coperta di Mitrone. Aspetta, che non si sente bene, non ho capito. Che cosa c'era dietro l'America di Romney? Dietro, diciamo, la coperta di Romney si vedeva, si intravedeva una bella America, diciamo, composita. Di bianchi, dai, di bianchi, su. Eccetera, bianca e cristiana, diciamo, simpaticamente, non politicamente corretta, ecco. Non... Che mi sarà molto simpatica, che devo dire, soprattutto negli Stati del Sud. Perché no, scusa un attimo, cerca di avvicinare un attimo la... Perché pochi sanno che in America esiste una Southern League eccezionalmente simpatica, che ha sempre avuto simpatia anche per noi. Sì, scusami Marione, però io voglio chiederti una cosa, ma un conduttore americano molto conservatore oggi ha detto una cosa interessante, un tale O'Reilly, lo conosci? O'Reilly. No, mai sentito. Ha detto, la vera la ragione della vittoria di Obama è che c'è stato, che il numero di neri ha superato i bianchi. Questa mi sembra già, io non sono così al corrente dei dati demografici, certo. Però se noi mettiamo neri, ci aggiungiamo i sudamericani, portoricani, asiatici, eccetera, e poi a questo ci aggiungiamo i 35 milioni di morti di fame a cui Obama ha dato l'assistenza sociale, cosa che devo dire... morti di fame, però certo. Insomma, tutta gente che naturalmente avrà avuto, se non è diciamo così voto di scambio, questo poco ci manca. E aggiungiamo 1+1 e vediamo dove l'elettorato. Cioè tu dici dietro Obama dietro chi c'è? Dietro il nome c'era l'altra America, ecco, c'era l'altra America. E quindi sicuramente il peso è stato un voto razziale. Ha vinto perché ci sono più neri. Ha vinto perché ci sono più neri ormai in America, questa è la sostanza. E diciamo che questo neri questo, e morti di fame, tu dici, neri e morti etnico, di fame. Il voto etnico ha contato enormemente, ma se guardiamo alle recenti elezioni francesi è stata la stessa situazione. La Francia è un paese di destra, e però il peso degli immigrati che hanno votato in massa per Hollande ha fatto pendere decisamente la bilancia. Nei giorni l'antipatia personale di Sarko. Negli ultimi giorni dobbiamo renderci conto che nell'Occidente invaso dagli extracomunitari questo voto pesa, noi ci dovremmo ritirare nell'Alaska, non so dove. Non lo so. Se vogliamo ancora essere maggioranza. Ormai resta solo l'Alaska, dici. Io non voglio citare chi l'aveva previsto, perché poi andiamo in autori che non è salutare citarlo. Non cito. Penso ma non cito. Penso intensamente ma non cito. Ma chi vuoi citare? Citerei un personaggio che ha la tomba a Torino, però non si può citare. Non si può citare. Alla tomba a Torino. Io non cito De Gobineau. Neanche se mi ammazzate. Non lo cito. Non lo cito. Ma perché? Che ha detto questo tizio che tu non vuoi citare? No, è tutta gente che ha previsto questa situazione. L'invasione, che il futuro sarebbe stato uno scontro di etnie, ma era una città. E Obama chi rappresenta in questo scontro? Obama rappresenta quelli come lui. Cioè? E quelli che non sono bianchi. A tra poco, dopo il traffico. Io la combatto. In tutto questo, caro Parenzo, l'America ha votato anche per diversi referendum, bisogna sottolinearlo e bisogna dirlo. Per esempio, questa è una cosa che porgo su un piatto d'argento anche a Mario Borghezio. Per esempio la California ha mantenuto la pena di morte, caro Borghezio. Sono contrario alla pena di morte, è una delle cose che non mi piacciono dell'America profonda. Ah, non ti piace? No, non mi piace perché... Prima di tutto perché sono un cristiano, diciamo, e poi perché c'è l'ostacolo insormontabile dell'errore giudiziario. Quindi questo, diciamo, la filosofia del diritto, la civiltà giuridica impone una certa prudenza. Senti, ma ultimamente in Francia. Ah, ma il Ku Klux Klan è morto in America, è finito? No, è rigoglioso come non mai. Addirittura. Adesso, non vorrei che queste mie parole potessero, diciamo, vagamente far sospettare una simpatia. No! Però diciamo che i dati dicono che c'è una risorgenza grazie a Obama. Obama ha, diciamo, non ha mica solo dei torti, anche dei meriti. C'è anche questo, cioè, dici tu, no? Anche questo, insomma, quello no, di... io due discorsi separati. Due separatissimi. Sta rinascendo, punto, sì, per fortuna, per fortuna, Obama dici non tu. Ha mica solo dei torti, virgola, anche dei meriti. I due discorsi non necessariamente sono legati. Tu dici per fortuna... Io l'assistenza sociale e sanitaria da noi... Noi siamo abituati al welfare per tutti, sì, quindi certo. In America sta sul cazzo tutti quelli che lavorano e producono, mantenere l'assistenza sociale a quelli che non fanno un cazzo lì non piace. Ho capito, noi però... siamo abituati, che volete sì. Dire? È un'altra filosofia di vita, un'altra Weltanschauung, per usare un bel termine di filosofia politica che fu tedesca naturalmente. Però tu di questo ritorno abbiamo avuto la Merkel oggi qui appena terminato a Bruxelles, il discorso qui. Ma io voglio capire una cosa, non è che l'hai incontrata per caso, no Marione? No, no però ho scritto una lettera al presidente, no tanto così per provocare perché, qualche altro incidente, perché si ricordasse di ricordare a questa qui sì, ci certo. Parla sempre solo di stringere la cinghia, che ci sono ancora in Italia alcune sì. Migliaia di poveretti anzianotti sì. Che hanno lavorato nei campi tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ah, che non c'hanno i soldi, di cui sì. Non gliene frega un tubo né alle autorità italiane né tantomeno a quelle tedesche, certo. Ed è una vergogna, una vergogna. Senti Mario, ma non ho capito, tu di questo, del fatto che il Ku Klux Klan sia un po' risorto, provi piacere per questa cosa qua? Che... Ma guardi, io non conosco bene il fenomeno, per poter giudicare bisogna conoscere... Però io, non ti dispiace. Però è stato un po' di corsa. Certo. E quindi, parliamoci chiaro, tutti i fenomeni vanno conosciuti e interpretati nel loro territorio. Non lo condanni, insomma, non lo condanni. Quindi sono stati un po' esagerativi. Un tantinello. Però difendere, perché da quello che si sa, ecco, poi magari sono calunnie. Certo. Hanno adottato, diciamo, delle misure, però... La filosofia, sì. Cioè alcune cose che diciamo, dicono le pensi anche tu, del differenzialismo, sì. Che sta alla base, diciamo, del Ku Klux Klan, di questa no? Resistenza che sì. C'è stata persino con una guerra civile negli Stati sì. Uniti nei confronti, diciamo, è una buona filosofia, della società dici. Multiraziale. Beh, all'epoca, io sarei stato sudista, diciamo, dei più sfegatati. Insomma, se tu fossi... Ma chi non ha visto il film, il famoso film... Mississippi Burning, e chi non si è identificato in questi eroi sudisti straordinari, insomma. Mentre quelle facce di merda dei nordisti negli Stati Uniti stavano veramente sui coglioni. Berlusconi, quattro anni fa... un'America che già allora... La faceva abbastanza schifo. Cioè quella nordista dell'integrazione multiraziale. La carità di Dio, va da retro satana. Invece questi sudisti, i cavalieri, sembravano, cioè avevano veramente lo spirito europeo, il senso di appartenenza alla terra. Ah, non c'è dubbio. Città, eccetera. Scusami Mario, trattavano forse meglio i neri, perché a quell'epoca certamente i neri non erano costretti a vivere nei ghetti urbani, a spacciare la droga, cosa del genere. Ma che li trattassero bene poi ci sarebbe da discutere. Comunque... Qualcuno magari non li trattava bene e li faceva malissimo. Però i farmers, diciamo, no, i personaggi di Via Colvento, bravissime persone, certo. I personaggi che ci fa vedere il film Via col vento, sono gente che conviveva in grande armonia col popolo nero, naturalmente quelli stavano al loro posto. Parenzo, che fai? Come Dio comanda. Parenzo, che fai? No, sono ammutolito. No, voglio capire una cosa, la parola Mario, quattro anni fa Berlusconi fece una gaffa, ti ricordi, con Obama, parlò di abbronzato, certo. No? Abbronzato. Ma direi che fu una delle occasioni in cui parlo meglio nella sua vita. Addirittura? Ma sì, perché devo dire, fece una battuta che non era proprio il caso. Poi abbronzato? No. Insomma, disse anche poco, no? Lo disse in maniera simpatica, in maniera simpatica. E poi una realtà, dici tu, no? Noi che abbiamo sulle balle la società multirazziale, tu come lo chiami? In realtà siamo i veri antirazzisti. Perché il razzismo nasce da questa demagogia. Ma tu come lo chiami Obama? Come meritevole di aiuto. Come lo definiresti? Di buona donna che sfaccia. Come lo definiresti Obama? No, Obama è sicuramente un politico di notevole livello. Sì. Voglio dire, è stato naturalmente portato lì non per suoi meriti, ma perché qualcuno... No, ma voglio dire, la definizione abbronzato era anche riduttiva, cioè uno può dire... No, la definizione abbronzato era ironica e detta contro... Ma si può dire direttamente negro, cioè senza... No, appunto. appunto ha evitato accuratamente di usare un termine che può essere considerato offensivo, quindi non, fu una delle occasioni in cui si scagliarono contro Berlusconi sbagliando. Comunque il proclama fatto da Borghezio qualche giorno fa in Francia è stato viva, com'era la storia? Ma io ho fatto un intervento molto lungo contro la società multiraziale. Sì, ma lo slogan principale, l'omologazione culturale. Sì, la cosa principale qual era? E viva, poi naturalmente ho elogiato la nostra etnia, l'appartenenza alla nostra etnia. No, tu hai parlato di viva i bianchi d'Europa. Viva. Io lo dico anche, essere orgogliosi di appartenere alla propria etnia bianca non significa odiare o disprezzare le altre etnie. Io sono tu hai parlato, bisogna bastonare, cinese, hai detto. Bisogna contento di essere cinese. Ma ho capito, tu hai detto che quando la nostra patria viene invasa bisogna bastonare, però. Sì, certo, certo. Beh, quando si vuole imporre la sopraffazione di altri verso di noi, questo è razzismo. L'invasione è razzismo, al contrario. Ma lo sapete che il più grande dibattito attualmente in corso in Francia è quello sul razzismo antibianco, che sta emergendo. E con questo chiudiamo. Mario, ti saluto, a presto. No al razzismo antibianco. Ciao. No al razzismo antibianco. La Zanzara. Eccoci qui, 19:17, 800 24 00 24. Parenzo, sei svenuto dopo le parole di Borghezio? Sono svenuto perché questo personaggio, che Borghezio è eurodeputato della Lega Nord, ha citato prima come grande personaggio il signor De Gubinò, sepolto che a non conosce Torino. Nessuno, che non conosce nessuno. No, ma se uno va a vedere chi è, e trova che è uno che ha scritto un saggio sull'ineguaglianza delle razze umane, cioè un uomo che teorizzava l'ineguaglianza delle razze umane. Ed è, diciamo, il punto di riferimento di Marione Borghezio, questo vuoi dire, no? E tu non ti... certo, e tu invece, va bene, avanti, ascoltatori, cioè, non si può liquidare tutto così, avanti, va bene, ascoltatori. Sentiamo la signora Bianca Berlinguer come imposta il suo TG3 questa sera. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Obama rieletto presidente, il meglio deve ancora venire. A Michelle, l'America ti ama, Romney riconosce la sconfitta, cerchiamo di lavorare insieme. Da subito, vecchi e nuovi problemi, crisi fiscale, finanza, disoccupazione e crescita, le promesse da mantenere con un congresso ostile. Bruxelles preoccupata, in Italia crescita debole, disoccupazione in aumento, le borse non festeggiano Obama, in rosso Milano e Wall Street. Tensione sulla legge elettorale, Schifani, riforma condivisa, si tratta sul premio al partito, Bersani dalla palude, non viene fuori un Monti bis. Il vice capo della polizia Izzo, citato nell'esposto anonimo sugli appalti al Viminale, conferma le dimissioni, il ministro, apprezzo il gesto e valuterò. Dopo gli scontri di venerdì davanti all'IKEA di Piacenza, il colosso svedese annuncia una riduzione di 107 posti di lavoro, manifestazione in città. Dal Maine a Parigi, passando per la Spagna, sempre di più gli stati che riconoscono i matrimoni tra persone dello stesso sesso. In Italia nuova bocciatura per la legge sull'omofobia. E come dimenticare, amico mio, la performance di ieri sera di Romano La Russa, già fratello, anzi no, fratello, no, fratello, no, no, hai ragione, già fratello, scusi signor Romano La Russa, non volevo, no, questo è da toccarsi a carne, no, no, ma non volevo, cioè, non volevo, fratello, no, volevo dire conosciuto come, insomma, invece ho utilizzato una parola sbagliata, già fratello significa defunto, in realtà non è defunto nessuno. Fratello di Ignazio La Russa, ieri sera alla Zanzara, in cui insomma, ha fatto l'elogio del braccio teso, del saluto romano. Ah. Diciamo che defunte sono le sue idee, per fortuna. Beh, sì. Per me un saluto romano, che è un saluto tra amici normale, anziché dire ciao. Peraltro, è un saluto molto più igienico che non darsi la mano coi tempi che corrono. Per cui. Beh, addirittura come un ciao direi di no, non è che uno dice ciao, tu quando saluti una persona dici ciao, non è che fai così invece di dire ciao, no? Ecco, cioè non è che fai hey! Vabbè, insomma, l'adozione gay fa venire la pelle d'oca, questo siamo un po' nel classico del signor Romano La Russa, eh? never, anziché green, ever black. Che due uomini o due donne pensino di adottare o peggio procreare, non so in che modo, procreare non tra di loro naturalmente, ma è comunque crescere, è già per me fa venire la pelle d'oca solo il pensare che possano crescere un bambino insieme, due donne e due uomini. Perché non mettiamo questa canzone così senza parlare a lungo? Che dici? Ma poi la gente che è in macchina ci possono accusare, dici che siamo capitati su radio, com'era all'epoca? No, Radio Balilla, cos'è? Radio Balilla? No, perché Radio Londra è una radio buona, questa è Radio Balilla. E allora passiamo a Di Pietro, va, sempre oppure questa... vai introdotta, oppure devi cominciare a parlare anche tu così. E ora è il momento di Antonio Di Pietro alla Zanzara, lo sentiamo in quest'audio raccolto da Riccardo Poli e Laura Marchesi. Si incazza. Questo fatto che le dicono vattene a casa, è vero che le crea imbarazzo perché non sa in quale delle 56 case andare. Questo non lo dire, perché questo non lo dire. No, questo non lo dire. Non metto qua. Quella è una mano. No, non permetterti di una cosa del genere, capito? Non si arrabbi, di Pietro. Io sono un uomo. Sono un uomo indifeso, lei in quella mano. Se dici io ho 56 case, sei un delinquente come quelli che l'hanno detto. È vero, ho fatto una domanda. Io pongo solo domande. Tu sei, se fai un'ultima affermazione di questo genere, sei un delinquente. E allora lei mi risponda. Che non è così, non le crea imbarazzo. Io sono un delinquente. No, ci mancherebbe altro, quelli che l'hanno detto. Sì, vabbè, però, benissimo. E dunque, report, quelli di Report sono classificati delinquenti da Di Pietro. 56 case, non ti permettere, delinquente se lo dici. Effettivamente Di Pietro non ha 56 case, bisogna dirlo, eh. Sì. Non ha 56 case. Ma vogliamo risentire Tremonti che sostiene che Obama si è ispirato a lui? No, che ha copiato. Che i democratici hanno copiato, signor Tremonti, su. Stavo facendo le prove per il movimento nuovo, le prove grafiche e di parole. Devo dire, non voglio dire che i democratici hanno copiato, ma io ho registrato in Italia, Italia su Italia, Avanti Insieme. E le formule sono quelle di Obama, Avanti e Insieme. E questo è indicativo. Ma indicativo di cosa? Indicativo di che? Indicativo di che? Senti invece questa meravigliosa teoria da parte di Antonio Martino. Ma io non capisco, perché non hanno nessuna... Ma perché non si vergognano? Io questo non... Semplicemente dici, perché sì, non si... Sì, non ci sono altre parole, ma perché non si vergognano? Cioè, mi ha accoppiato. Martino, i maschi musulmani saranno in maggioranza. Senti Martino, stupendo, alla Borghezio. Nel 2020 ci saranno 1 miliardo di maschi, sì, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Di questo miliardo... 65 milioni saranno europei e 300 milioni musulmani, per lo più dislocati nella sponda sud del Mediterraneo, disoccupati, insufflati da propaganda islamista. In altri tempi, con altra tecnologia militare, questo si sarebbe tradotto nella conquista. L'Islam avrebbe conquistato l'Europa. Oggi, con la tecnologia militare, questo non è possibile. Ci dovremmo contentare dei due fratelli minori della conquista, il terrorismo e l'immigrazione di massa. Sì, e il Borghezi americano si chiama Bill O'Reilly, che in realtà è un grande presentatore radiofonico e televisivo, il quale dice, in inglese lo sentite ma lo capite tutti, lo capiamo perfino noi che siamo ignoranti: Obama ha vinto perché ci sono più neri. The white establishment is now the minority and the voters, many of them, feel that this economic system is stacked against them. And they want stuff. You're going to see a tremendous Hispanic vote for President Obama. Overwhelming black vote for President Obama. And women will probably break President Obama's way. Angelo da Napoli, buonasera Angelo. Buonasera Cusani. Dica. La mia telefonata è un po' scomoda, forse per lei. Scomoda? Non è che lo dice prima, scomoda, bisogna sentire. Perché adesso vengo dunque. Praticamente, sì. Io, per me lei un coglioncello. E va bene. Quando quelli che telefonano danno del tu, lei prende le distanze, tipo razzista. Poi sì. Chiama quel coglione di Borghese. Stia calmo, stia tranquillo. Lei deve stare tranquillo. Deve stare molto tranquillo. Io penso che molti ascoltatori che l'ascoltano tutte le sere, pensano a quello che gli sto dicendo io, ma si scocciano di telefonare. E lei invece possiamo telefona, lei ha preso questo grande, ha avuto questa botta di coraggio. No, ho avuto il tempo stasera perché sono andato da Napoli a Bergamo. Da Napoli a Bergamo, che va a fare a Bergamo? Saranno fatti miei. E che ne so, io lo chiedo. Vado per lavoro. Per lavoro, come mai? Anche i napoletani lavorano. Ma chi dice il contrario? Parecchia gente, di quello che ha invitato pure lei. Di quelli che invito io che fanno? Soprattutto di quella che ha invitato poco fa, insomma. Che fa? Non apre bocca se non dice un cazzo, insomma. Stia tranquillo, stia calmo, stia tranquillo. Allora, non ripeta, se le dà fastidio quella parola, non la ripeta. No, a me non dà fastidio, dà fastidio il suo atteggiamento verso tutti quelli là che la sentono tutte le sere. Sì. E che quindi fanno pure la sua fortuna. Sì, va bene Angelo, buon viaggio, buon viaggio. Ciao, Cucia. Roberto da Milano, questo insulta, poi alla fine... Questo è molto bello, perché la riceve all'isola? Ciao, Cucia. Roberto bello. Da Milano. Pronto? Buonasera, dica. Buonasera, senta, io volevo dirvi una cosa, ma questo mi sono perso un pezzo di posizione perché stavo tornando a casa. Ma, Borghezio, questo è tutta apologia di nazismo, di fascismo, come perché? Beh, adesso apologia, non lo so, faccia lei. Perché lo mettiamo in onda? Perché ci piace, ci diverte. No, perché devo andare in galera, poi si è inventato... È in galera adesso, sono in galera. Sì, il genio si è inventato che gli dà fastidio a quelli che sono mantenuti dallo Stato, che non fanno un cazzo. Lui cosa fa il politico di professione. Sì. Perché? Perché cosa? Perché di permettete di dire queste cose? Veramente, è una cosa incredibile, secondo me. Per farla arrabbiare. Per farmi incazzare. Esatto, ce la fate. Bravo. Grazie. Mattia da Verona, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dica. E niente, io vorrei esprimere con forza il profondo sdegno nel sentire un rappresentante delle istituzioni liquidare la vittoria elettorale di Obama nello Stato che credo sia l'esempio di democrazia nel mondo, sì. Come della vittoria grazie al voto dei meticci, sì. E degli extracomunitari. E dei morti di fame pure aggiunto. Esattamente. Io sono molto viva la libertà e ognuno dica ciò, sì, che pensa, però sentire dire certe cose veramente è una cosa vergognosa, scandalosa, cioè è un rappresentante delle nostre istituzioni, sì. È una cosa scandalosa. Inviti i dirigenti della Lega a prendere provvedimenti se vuole, non ce lo dica a noi. Noi abbiamo fatto parlare come al solito qui a casa, si trova a casa sua il signor Borghezio, e io per questo difendo la sua libertà di esprimere quello che vuole, di esprimere le sue idee, di dire quello che gli pare. Borsa, torniamo subito. La Zanzara. Il signore che fra poco sentirete si candida alle primarie, tra parentesi, farsa, del PDL. Capito, Parenzo? Il partito della rivoluzione. Aperta parentesi. Ma di che stiamo parlando? Ah, è sempre signor Sgarbi, ma io non capisco. Ma se ha il braccio rotto, poverino, che se vabbè, il braccio rotto adesso non è che ti impedisce di partecipare alle primarie. Ma non si può riposare un po', che, come dicono in Toscana, chetati Vittorio, chetati! E il bello è che lo farà in accordo con un nuovo partito che si chiama Moderati in Rivoluzione. Moderati in Rivoluzione, di un signore che è stato anche ospite alla Zanzara, il signor Samori. Un banchiere, finanziere, industriale di Modena molto molto ricco. Te lo ricordi il signor Samori alla Zanzara? Come no, come molto ricchissimo, c'è anche un aereo privato. Vabbè, quello che c'entra, quello c'hanno pure i poveracci, l'aereo privato ormai. Beh, no, ma che dici? Ma sì, dai, su, l'aereo privato è roba che... Ah, perché tu hai l'aereo privato? Ma sì, ma lo potrei fare tra poco in realtà, cioè non ci vuole molto a farsi un aereo privato, dai, su. Ma come? Ma sì, dai, sì, ma uno se lo può fare tranquillamente, no, sto scherzando, ovviamente non ho l'aereo privato, non scateniamo queste follie. Ah, ecco, perché guarda che ti vengono a prendere sotto lì, sotto il sole. No, ovviamente non ho l'aereo privato, però non è che l'aereo privato significa che sia molto ricco, potresti essere anche un bandito che non ha un euro, cioè... sei un criminale di guerra, un mafioso, un arco de- un... però è vero che puoi, che devi essere molto ricco comunque per averlo. Beh, molto ricco sì. Il nuovo candidato alle primarie del PDL. Il punto G è una cosa bellissima, che tu goda, mi piace. Io sono contento che tu goda. Il punto G, sì, ma non è meraviglioso. Sì, ma non facendo televisione. Io voglio il punto G. Viva il punto G. L'orgasmo è lecito. L'orgasmo è lecito. Stupate. Fate quello che volete. Andiamo a vederlo. Viva il punto G. Viva il punto G. Viva il punto G. E se in televisione ce l'hai che faccia il punto G, meglio. È il nuovo candidato alle primarie del PDL. Vabbè, notizie sparse. Un giudice ha dato ragione a Luciano Moggi. Miracolo. Viva il punto G! Com'è che faceva? Viva il punto G! Viva il punto G! Poi ha parlato di scopare, eccetera, eccetera. Beh, quello è un manifesto politico. Ferrara, sì, assolutamente. Ferrara ha perso su Romani una scommessa e ha dato 100 euro a Mentana. Un giudice ha dato ragione a Luciano Moggi. Perché dice questo giudice che non diffamò Zeman quando disse di Zeman, allenatore della Roma, storico nemico di Moggi, che non sapeva allenare. E il ministro Fornero ci ha annunciato che le piace passare qualche ora nell'orto, questa della serie Chi se ne frega. Io trovo le mie due ore di respiro sono quando io riesco ad andare nel prato, in fondo al prato ci abbiamo insieme a mia figlia un piccolo orto e coltiviamo qualcosa che non viene regolarmente mai, però è fonte di grande, grandissima soddisfazione personale, oserei dire di non solo di rilassamento ma anche proprio di gioia. La rivoluzione nemmeno un cannone però. 4 anni fa Berlusconi passò la notte elettorale, te lo ricordi, la notte elettorale che portò all'elezione di Obama nel lettone di Putin insieme alla Daddario, così, no? Narrano le leggende. Beh, narrano. No. Vabbè, adesso io dico narrano le leggende così per scherzare e ridere. Narrano i verbali dei processi. Sì, va bene, lascia sempre sti verbali dei processi in testa, c'hai. Sempre. Ieri sera è andato allo stadio a vedere il Milan insieme a Briatore. Non dico niente, 800 24 0024, la Zanzara, Antonio da Livorno. Bonsoir. Sì, buonasera Cruciani. Io chiamo per commentare la sua profonda incoerenza sul tema dell'omosessualità. Ancora? Sì. Qual sì, è l'incoerenza? Scusi, caro Antonio. L'incoerenza è questa. Sì. Lei ha accolto e commentato con simpatia le aberranti affermazioni di padre Livio. Quando no, io le scusi. No, mi faccia Antonio, abbia pazienza, che io abbia accolto con simpatia e soprattutto sì, con approvazione le affermazioni di padre Livio, lei sì, non ha capito assolutamente nulla. Lo voleva in trasmissione. Ma certo, quello così che significa. E io invito tanti mostri in trasmissione, adesso senza voler dare del mostro, detto con tutto il rispetto, insomma. La cosa che mi ha sorpreso in negativo sì, è che quando ho ascoltato spesso penso che mandava ambulanze a persone che citavano le diversità scientifiche, biologiche. Vabbè, allora omosessuali, arriva padre Livio e lei lo fa sentire come se fosse perfettamente normale. Viva padre Livio quando invita i gay ad andare in campagna per vedere come funziona la natura. Ma dico, ma perché lei non ha preso una posizione? Questa è lei non ha capito nulla, lei non ha capito niente, non ha capito niente. Non ha capito niente, ma succede nella vita non capire. A me succede tante volte di non capire, anche a lei succede, in questo caso lei non ha... Pronto? Pronto? Sì. Ministero Affari Esteri, mi dica? Sì. Ah, buonasera. Sì, buonasera, la portavoce, la segreteria portavoce dell'onorevole Bianco Fiore, scusi l'ora. Volevamo fissare un incontro con l'onorevole Bianco Fiore dopo il terribile scontro che ha avuto qualche giorno fa con un signore, un giornalista inglese. Volevamo fare una sollecitazione anche all'ambasciata britannica, diciamo, Sloan. Ma precisamente qui al Ministero degli Esteri con chi vorrebbe parlare? Beh, no, col Ministro. Ah. No, io diciamo l'onorevole solleverà in aula prossime die la questione Sloan, questo attacco durissimo fatto da questo cittadino britannico, giornalista. Perciò adesso le passo direttamente alla segreteria del Ministro? Forse sì, grazie moltissimo. Va benissimo. Grazie. Siamo in diretta con la Farnesina. Il caso di... Siete del Ministro degli Esteri? Sì, buonasera, la segreteria dell'onorevole Biancofiore. Volevo sapere se era possibile fissare un appuntamento con il Ministro, perché nei prossimi giorni l'onorevole vorrà presentare una interrogazione urgente sulla terribile vicenda che ha visto coinvolta l'onorevole con il signor Sloan, questo giornalista inglese. Guardi, se invia un'email noi la mettiamo direttamente alla cortese attenzione della sua assistente personale. No, perché qui è un caso paradiplomatico, perché insomma, l'onorevole è stato, sono dette delle parole durissime anche nei confronti del presidente Berlusconi e... Vorrei, cioè, che mi ha espresso questo desiderio di presentare i prossimi die una interrogazione parlamentare urgente con risposta immediata sulla vicenda Sloan. Sì, l'unica cosa, ecco, se sì. Può inviare due righe queste mail alla segreteria del ministro Terzi, così viene lei per una richiesta di appuntamento, giusto? Beh sì, magari è meglio che magari ci vediamo prima con il ministro per cercare di capire. Lei ha seguito, no, la vicenda del signor Sloan? Guardi, sì, l'unica cosa, ecco, per quanto riguarda le richieste di appuntamenti, è preferibile inviare una mail che noi la giriamo direttamente alla sua assistente personale, che verrà a contatto direttamente da lei. E quindi possiamo fare direttamente un appuntamento con il ministro per cercare di capire. Noi stiamo già buttando giù in questi giorni, il nostro ufficio sta buttando giù tutta la pratica per questa interrogazione urgente. Beh, insomma, il caso di Sloan è stato un attacco durissimo nei confronti dell'Italia, di Berlusconi, una cosa veramente, cioè, che merita, insomma, una mobilitazione. Comunque d'accordo, quindi devo mandare una mail per l'appuntamento. Sì, le do l'indirizzo email. Sì, sì. Segreteria. Ma quello ce l'ho allora, se è quello solito che... Sì, quello ce l'abbiamo. Sì, ecco, se la può inviare appena può, che noi la giriamo direttamente alla sua cortese attenzione. E quindi il ministro comunque nei prossimi giorni potrebbe essere disponibile a fare anche un pre-incontro per poi elaborare, diciamo così, una... Sì, bene. Va bene? Bene, bene. La saluto, arrivederci. Grazie moltissimo intanto. Arrivederci. Grazie. Caso diplomatico che coinvolge Micaela Biancofiore. Ma com'era il proxy? E John Peter Sloan. È arrivato alla Farnesina. Claudia da Pisa, buonasera. Sì. Dica. Ma io volevo semplicemente commentare lo sproloquio classista e razzista che ha fatto prima il signor Borghezio. Sì. Semplicemente considerando che chi ha votato Obama è un americano, che sono i morti di fame, come lui li ha definiti. Allora, signora, ma non è manco il caso di sottolinearlo, ma di che stiamo parlando? Su. Però sì, no, ha ragione. Beh, insomma, che non sia il caso di sottolinearlo, lo dice lei e molti penseranno di no. Io credo che sia da sottolineare che chi ha votato Obama, anche se è ovvio ai più o quelli che hanno una media preparazione e intelligenza, sono americani. Il signor Borghezio non ha espresso il suo concetto, anzi l'ha ribaltato, e mi sembra opportuno sottolinearlo per quelli come lui, che spero siano pochissimi, che hanno una bassa cultura e conoscenza delle cose. Tutto qua. Va bene, grazie. Luca da Vicenza, buonasera. Buonasera. Luca, abbassi la radio, chiuda la radio, ritorno tutto. Vada veloce, su. Allora, due cose volevo dire. Uno, appunto, a proposito di Borghezio, il quale ha tutto il diritto di dire quello che vuole, primo. Sì, sì. Può dire che lui vuole un'Europa bianca e cristiana, ma il cattolico Borghezio domenica andrà a messa, e a messa il prete leggerà il Salmo 146, in cui si dice: il Signore protegge lo straniero. Sì. E dunque? Primo punto. Sì. No, quindi, dunque, lezione per Borghezio, poi? No, quindi si mette d'accordo con se stesso, insomma. Se vuole essere cristiano, prenda atto che non è così. Sì. Insomma, ecco. Seconda cosa, a proposito del governo francese che legittima le coppie di fatto anche per l'adozione, questo è un concetto che io ho già detto un'altra volta in trasmissione, e io sono molto contento ovviamente perché i bambini non adottati… Lei è omosessuale? No, io sono un genitore di una bambina adottata, africana. Allora? I bambini non adottati muoiono. Sì. E dunque? Vabbè, punto, ok. E quindi è bene che ci siano qualsiasi coppia che si ama e che può passare tutti i requisiti legali che ci sono da fare, che sia omosessuale o no, salva un bambino da una morte e, per quanto visto io, anche da una morte molto brutta. Va bene, grazie. Edoardo dalla provincia di Cremona. Animo però, Luca, va bene che ognuno ha il suo modo di parlare, però lei si ferma, poi non sappiamo se si è fermato perché gli è caduta la cornetta oppure perché ha questo modo di parlare, per carità, mica lo voglio contestare. Edoardo dalla provincia di Cremona. Pronto. Dica. Pronto. Vada, vada però, sì, la sento. Sì, vado. Ecco, io volevo dire soltanto che non si può accettare quello che dice Borghezio, perché allora se cominciamo con il razzismo dobbiamo prima di tutto discriminare lui, che è brutto, grasso e puzzolente, poi è miope, cioè allora qui cosa... Io vorrei soltanto incontrarlo, poterlo incontrare per dargli due calci in faccia. Io sono un elettore... addirittura. Sì, addirittura. Addirittura perché è un essere inqualificabile, non può offendere tutti. E i poveri, i non poveri. Cioè lui è un individuo che bisognerebbe... Io mi farei offendere da lui, cioè ci mettiamo in una stanza io e lui e guardiamo chi viene fuori dopo. Perché non è possibile accettare un individuo schifoso del genere. E io sono di destra. Ma ripeto, che c'entra la destra in questo caso? Non c'entra nulla la destra. C'entra perché caso. Lui è della Lega Nord, è sempre stato insieme alla destra a Berlusconi per anni. E un essere che ragioni in questo modo, che sia al deputato europeo, veramente una cosa inqualificabile. Una cosa inqualificabile. Grazie. Va bene, Edoardo, grazie. Orazio da Catania, buonasera. Buonasera, Orazio, dica. Buonasera, Cruciani. Buonasera. Senti, io volevo intervenire sul discorso qua dell'adozione delle coppie di fatto. Un attimo solo. Qui chi è? Non te lo posso dire prima, no? No, sì, c'è anche questo, vero, tutto in diretta, sei venuto live, tutto molto ascoltatori, battaglia. Gentile la Farnesina, però, no? Beh, sì, certo. Beh, adesso però non c'è. Va bene, Orazio, allora, Orazio da Catania, su. Che stava dicendo? Sì. Sul discorso dell'adozione delle coppie di fatto, non è che il discorso di quello che diceva poco fa l'ascoltatore che diceva che i bambini muoiono, ma si perde anche il valore che si dà alla coppia vera e fatta di uomo e donna, perché io sono sposato da 4 anni, ho 2 bambini e l'emozione che dà la bambina che chiama la notte, chiama la mamma, ha bisogno della mamma. Sì, ma questo cosa c'entra, Orazio? Cosa c'entra? Lei... Ma i bambini crescono, non è che sanno le cose che... Sì, però ci sono delle, Orazio, ci sono delle esperienze nel mondo che dicono esattamente il contrario. Io non sto dicendo che bisogna farlo per forza, non sto dicendo che bisogna farlo per forza. Se non lo facciamo siamo un paese incivile, non lo dico. Cioè, dico semplicemente che ci sono esperienze. Chi è che fa questo rumore? Parenzo, chi è che fa questo rumore? C'è un rumore di qualcosa? E il mio cellulare mi sta Ho capito, amico mio, spegni sto cellulare. Allora, spegni il cellulare. Ma non spegni, metti il silenzioso. Non puoi tirare l'acqua, ogni cosa diventa oggetto di discriminazione, ma io chiamo i sindacati. Metti il silenzioso. Allora, Orazio, il problema è molto semplice. Nessuno dice che bisogna per forza fare l'adozione gay in Italia. Però ci sono esperienze di coppie omosessuali che crescono tranquillamente un bambino, senza problemi, il quale va avanti nella vita senza particolari traumi. Ci sono esperienze, libri, tonnellate di libri. Naturalmente ci sono libri anche che dicono l'opposto, perché prendono naturalmente le esperienze di persone traumatizzate, però non è detto che siano state traumatizzate da questo. Alcuni magari sì, ma insomma tanti vengono traumatizzati anche da coppie eterosessuali che si menano, Sì, quello sì, siamo d'accordo, cioè, è normale che... Dopodiché non ho detto che bisogna farlo per forza, ha capito? Cioè non è detto che è obbligatorio farlo. Io l'ascolto da un po' di allora... tempo, però c'è un po' di volgarità a volte in questa trasmissione, troppo... ma che c'entra questo, scusi? Cosa c'entra adesso questo con la questione dell'adozione dei bambini da parte di una coppia omosessuale, scusi? Che c'entra la volgarità? No, non c'entra niente, però c'è troppo perché dice i bambini crescono traumatizzati, ma tutti cresciamo un po' traumatizzati, non è che sono solo i bambini che crescono traumatizzati, però se noi ci mettiamo ancora del nostro per traumatizzarli ancora di più, secondo me, è un mio parere, posso sbagliare, non posso avere ragione, però io ho capito. Una persona... No, ho capito, Ludovico da Milano, buonasera. C'era lei, dottor Cruciani. Vada. Io la chiamavo ieri sera perché volevo dire qualcosa a proposito di quella orrenda intervista al signor Romano La Russa. Sì. A proposito del saluto fascista. Non ho capito, facciamo solo interviste orrende noi, non ho capito. No, assolutamente, ne fate allora anche di ottime. Però queste cose mi colpiscono moltissimo, sì, perché... Da cosa è rimasto colpito? Dal fatto che il signor Romano non ha preso il vizio di essere un vigliaccone. Io ricordo questo signore quando avevo 27 anni. E lui si trovava in via Bellotti insieme ad un altro come lui che lanciava bombe a mano ai poliziotti italiani. Hanno ammazzato uno. Sì. Si chiamava l'agente Marino. No, non ho capito. Chi è che avrebbe ammazzato l'agente Marino? Non ho capito. Un signore che si chiamava Loi, neofascista. Sì, ma ho capito. Ma cosa c'entra questo con il signor Romano La Russa? Scusa. No, adesso... c'entra. Perché? C'entra perché voi non fate mai delle critiche su questi personaggi. Ho capito, ma non è che noi dobbiamo rifare la storia del signor Romano La Russa. No, Romano La Russa ieri ha detto delle cose sul saluto romano. Sì, cose che aveva saluto già detto. Romano, quello è la cosa peggiore che si poteva fare. Perché, voglio dire, ha criticato Fini che è andato al funerale di Pino Rauti. Ma Fini ha avuto il coraggio però di intervenire. Nonostante quello che Fini ha fatto all'interno del movimento sociale, quindi c'è da dargli atto di questa sua coerenza, quantomeno. Invece la Russa va un po' di qua, un po' di là, dove gli conviene, perché oggi si stanno cagando tutti addosso, perché... Ma veramente ha detto le cose che ha detto, che dice sempre, cioè non mi pare che ha detto delle cose No, ma per l'amore è proprio questo che dà fastidio. Vabbè, magari dà fastidio perché rivendica il fatto di essere stato fascista. Ma no, comunque... ma per l'amor di... no, magari rivendicasse questa cosa qua. Beh sì, un po' lo rivendica. Ma no, non l'ho mai fatto, lo rivendicava ai tempi quando anche lui si faceva scudo di altre persone, adesso se ne Vabbè. Sta schiscio. Storie vecchie, storie vecchie. Grazie Ludovico. Giuseppe dalla provincia. Arrivederci, Cruciani. Giuseppe dalla provincia di Chieti, buonasera. Buonasera. Dica. Dottor Cruciani, sì. Io chiamo per esprimere un pensiero. Sì, ecco. Chiunque Ora, chiama per esprimere un pensiero. Io ascolto la sua trasmissione spesso, perché viaggio molto in macchina. Sì. Però l'ascolto quando sto da solo, perché molto, molto spesso mi capita di stare con i miei nipotini. Sì. È veramente è scandalizzante, se vogliamo. Sì. E i termini che lei usa, per esempio, che per esprimere un concetto che potrebbe essere espresso lo stesso. Non mi faccia un esempio. Puliti, mi faccia un esempio. Le parolacce. Mi faccia un esempio, a parte che non è vero. Come, ma... come specialmente poco fa. Mi faccia un esempio. Ecco, le faccio un esempio. Ecco, mi faccia un esempio. Fa a scopare. Come i cazzi e tutte no, queste parolacce. Calmo, stia Ora, calmo, stia cosa, calmo. Io ripetevo delle cose che dicevano altri. Sì, ma comunque in trasmissione. No, stia calmo, stia calmo, non dica cose false. Ecco. Poi, non dica, comunque guardi, dico, le suggerisco, caro Giuseppe, mi ascolti. Sì. Le suggerisco un semplice rimedio. Parenzo, fai tu. Che cosa deve fare questo signore quando è in macchina con i bambini? No, io pretendo, è molto semplice. Aspetti. Lei... avrà sicuramente un seggiolino a norma dove mette il bambino, ferma la macchina a bordo dell'autostrada, mette le quattro frecce, prende il seggiolino con il bambino, prende una corda di quelle elastiche e lega la corda elastica al tubo di scappamento, la lega anche al seggiolino, risale in macchina, gli dà magari un ninnolo, un cagnolino di risale in macchina, accende la radio a tutto volume, mette la quarta, preme sull'acceleratore, 220 all'ora, via le mani dal volante e tutto passa. Pubblicità. La Zanzara. L'impero della musica è giunto fino a noi, carico di menzogne, mandiamoli in pensione i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumo e raggi laser. Il signor Battiato, di cui sentite una celebre canzone in cui se la prendeva con gli addetti alla cultura, e adesso lui è diventato una sorta di addetto alla cultura, in realtà nemmeno questo, Parenzo, nemmeno questo, per carità, però non mi voglio scagliare contro Battiato, non ce n'è bisogno. Perché farà benissimo come testimonial della cultura e dell'immagine della Sicilia in tutta Europa, in tutto il mondo, se lo farà. Ma non sarà nemmeno assessore alla cultura, l'ho detto ieri dalla Gruber. Vabbè. No, ma senti. Beh, anzitutto cambiare idea fa bene, in generale fa bene, però può essere che non siano adatti certi direttori artistici. Ma devo fare una rettifica, perché in realtà non sarei assessore alla cultura, bensì al turismo e spettacolo. E poi spiega perché, eh? Perché l'assessore alla cultura è troppo impegnativo. Ma dai, su, ma di che stiamo parlando? Nel senso che l'assessorato alla cultura vuole dire teatri di tradizione, un pasticcio enorme e poi una frequenza a Palermo che non sarei in grado di sostenere perché ho molti impegni già presi da tempo. Invece con l'assessorato al turismo e spettacolo posso fare le stesse cose che avrei potuto fare nell'assessorato alla cultura, ma con più libertà. No, spiegatemi, cioè, adesso se ci fosse stata una qualsiasi amministrazione di un altro colore, un qualsiasi altro personaggio, uno che ti dice siccome devo fare le mie cose, o i miei spettacoli, i miei dischi da incidere, i miei concerti magari da fare, beh, sai, l'assessore alla cultura, al turismo, allo spettacolo è una cosa che ti porta via meno tempo. Ma di che parliamo? Parenzo, aiutami anche tu, perché no, ma io su questo un'altra radicalmente... persona sarebbe stata massacrata. D'accordo con te, non prende una lira, cioè non prende. Ma questo che c'entra? Ma uno fa l'assessore al turismo, allo spettacolo, uno si dovrebbe fare un mazzo così per la Sicilia, allora, e questo dice che dice lo fa a tempo perso perché ha le sue cose da fare. Dai, lui mette il suo nome in modo molto generoso e autentico, il suo nome, la sua storia, il suo brand, se vuoi, al servizio della sua terra. E dice, non prendo una lira, sì, però non chiedetemi di fare bubù ogni giorno con i funzionari, io mi occupo del turismo, della promozione del mio territorio, e gli spettacoli, cosa che so fare e organizzare. Su, qualsiasi altra persona sarebbe ma stata lapidata, dai su, se ma tu, perché devi se dire, tu, dai su, perché, il maestro Battiato, perché? Ma che c'entra, ma qui non ci sono sepolcri imbiancati, il punto, perché non ci sono così? Persone intoccabili, il punto ma è un altro, se uno mi dice, devo fare infinitamente l'assessore al turismo, allo spettacolo, e dico, lo faccio perché così posso lavorare, cioè devo, il turismo e lo spettacolo sono stronzate, questo no, dice, sono cose che posso fare no, facilmente, commette un errore enorme. Non dice così. Ma come no? Come dice no? Che dice sono così. Sono i due ambiti dei quali lui si occupa, cioè nella sua vita professionale, vabbè, non volendo abbandonarla, perché quello che vabbè, allora che non facesse l'assessore, facesse il testimonial, su, andasse a fare la Madonna Pellegrina in tutta la Sicilia per conto di Crocetta. Dai. Sbagliamo a chiamarlo assessorato, in verità lui non prendendo una lira è come fosse un consulente. Vabbè, chiamatemi Sgarbi, gratis, su, chiamatemi Sgarbi, dai, chiamatemi Sgarbi. Ivan da Bergamo, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Buonasera. Niente, volevo semplicemente consigliarvi, se mi posso permettere, di iniziare a chiamare un po' di persone nuove, sì, e non il vostro amico Borghezio. Noi chiamiamo e tanti chi, altri. Chiamiamo chi ci pare. Sì, giustamente, sì, chiamiamo chi ci pare, ma... Ma che cosa ha fatto? L'ha fatta arrabbiare? Ma secondo lei, sono l'unico che non si arrabbia, lei, ma... No, no, ma fa bene, ma io questo voglio... Il suo ruolo è fare spettacolo. Voglio che le ribelli... Sì, ma non ha sbagliato. Voglio complimenti voglio per il che suo giornalismo voglio che le spettacolo. Sì, benissimo, voglio che il suo sangue ribolla, voglio che il suo sangue... No, ma guardi, io ho altro cui pensare, purtroppo, e allora la che vita vuole? Reale, non le cazzate, la vita reale. La vita reale. E allora perché sì, chiama? Perché perde tempo a chiamare? No, la chiamo perché, cioè, giustamente, magari... si rende conto che fuori dal suo studio c'è altro. Sì. E ma di io, questo lei io... non ne parla mai, anzi, da, no, sempre, da sempre sufficienza. No, perché, amico mio, caro Ivan da Bergamo... No, non ci conosciamo, faccio ma... come lei, non ci conosciamo, benissimo, amico. Amico mio amico? È un'espressione che uso anche se non, uno, anche se non sono amico della persona, no, che chiamo io così. Io l'ho sentita molte volte. Va bene, non, si, non la chiamo più così, non si allerti, non, si, vede, non, vada, non vada in... Non vada in, in che è successo? Vittorio? Sì. Come Cruciani, stai? Come va? Benissimo. Dove sei? 4 anni di attesa, di speranza, di tutto in una notte. Stai male, stai. Ma che è successo? Se fossimo partiti in nervio, avremmo vinto noi. Ma era con Berlusconi, era? Era no, con Berlusconi, sì, era con e Berlusconi. Stava guardando il telegiornale? Sì, era con Berlusconi, Insomma, stavano guardando il telegiornale, forse. Stavano sentendo... Sì, quello è il TG. Strano sì, che... Perché va a presentare la lista con Samorì, capito? Con Samorì, col signor Samorì. Non voglio neanche sentire queste signor cose. Signor Samorì. Non sì, voglio neanche sentire queste cose io. Pare che sia anche tesserato il PDL, Giampiero Samorì, che è un personaggio assolutamente di livello. ha realizzato un movimento che si chiama che non mi dico, Imprenditori in Rivoluzione, in movimento. Vabbè, insomma, movimento moderati in rivoluzione. Moderati in rivoluzione. Che si è federato col Partito della Rivoluzione. E sono, questa sera a casa di Berlusconi, pare, a cena, per organizzare insomma qualcosa, no? Bah! Allora, chi era? Me lo richiamate un attimo quello di prima. Roberto da Milano. Roberto? Sì, dica. Ciao, buonasera, dottor Crociani, piacere di conoscerlo. Comunque pare che non sia con Berlusconi adesso, mi avverto, no? Comunque. Roberto, sì. Piacere di conoscerlo, dottor Cruciani. Sì, buonasera. Niente, un attimo, ringraziarla per l'ilarità con cui è riuscito a farmi ridere di Borghezio, perché è assurdo che un coglione di tal genere possa occupare un posto così di rilevante, importante nel nostro ministero europeo. E mi domandavo come mai, appunto, con viene eletto dalle persone, ci sono delle persone che vanno là a depositare nell'urna una scheda con scritto Borghezio e le persone mettono o il nome o la X. Sì, penso un po' il nome. Ignorante così occupare un posto di questo genere. Stia tranquillo, no, ma va bene. Ignorante, va bene. Sì, nel senso è allucinante perché è stato uno sproloquio assurdo di mancanza anche di basi culturali da parte sua, oltre che nell'esprimere anche di fatti storici. Sì. Comunque è stato votato e ce lo dobbiamo tenere. Non mi stupisco se poi l'Italia abbia problematiche di questo genere, perché ne facciamo delle grandi figuracce con persone di questo genere. Sì. Poi è divertente anche come, ridendo lei tra le righe, è stato esterefatto, ridendo tra i denti, esterefatto di quello che diceva. Vittorio? Ma perché chiude? Non so perché chiude, è la prima volta. Sta con Samorì, là, questo imprenditore modenese, banchiere, che è considerato il nuovo Berlusconi, la carta che Berlusconi potrebbe giocare. Il nuovo Berlusconi mi sembra troppo. Grazie Roberto, abbiamo recuperato Ivan da Bergamo. Eccoci qua, Ivan. Allora, dove eravamo? Eccomi. No, eravamo che sì. Giustamente c'era un altro amico al telefono. Sì, c'era un altro amico al telefono, sì. Sì, un altro spettacolo. Sì, ma a lei dà fastidio lo spettacolo? No, però Crociani, cioè, sì. Dobbiamo essere anche realisti. E allora? È un mondo veramente diverso. E allora? Cioè, forse scelga di dare spazio anche a quello. Lei dirà, io faccio quel cazzo che ci voglia nella mia trasmissione. Primo quello. Secondo, non è che tutte le trasmissioni debbano essere uguali, si debbano occupare delle stesse cose. Ma ragione. Sì, vabbè, guardi che se fosse in televisione non fa che altro che una trasmissione come quelle che fanno in TV. Sì. Uguale. Sì. Pettegoletto. Ce ne sono tante di trasmissioni in televisione. Eh? Ivan, lei la televisione la guarda poco, ce ne sono tante. Molto poco. Guardi, la guardo poco, sì. Sinceramente. Sì. Ma non è una scelta consapevole. No, non sarà consapevole, guardi, non avrà tempo, ma in televisione c'è di tutto. Non sono un intellettuale che non guarda la TV, sono una persona normale. Sì, vabbè, semplice, ma allora come fa a giudicare la televisione se non la vede, scusi? No, cioè, per le poche volte che mi capita di vederla. Ecco, benissimo, ho capito. Ho capito, per le poche volte che le capita, cosa guarda le poche volte? Sì, ma niente. Le poche volte che la guarda, cosa guarda? Guardo lei, la guardo anche quando parla di calcio. Sì, ma quello non c'è più, per cui Ivan... Appunto, allora forse è molto che non la vedo. Ecco, appunto. Allora, e invece la giudica la televisione lei? No, assolutamente. Mi pare di sì. È uno strumento di comunicazione, ognuno ne fa, ne interpreta come vuole. Va bene, 20 e 9 minuti, pubblicità. La Zanzara. Nicola da Torino, buonasera Nicola. Sì, buonasera. Vada. Vado, mi riferisco al signore che prima lamentava la vostra eccessiva volgarità quando si trova in macchina con le nepotine. Sì, c'è una sola cosa da fare in questo caso ed è il metodo Parenzo. Sì, no, ma il metodo Parenzo va benissimo, la questione è che il modo in cui ha risposto al signore è veramente da imbecille. Cioè? È un invertebrato Parenzo. Sì. È maleducato, è volgare. Ma perché? Che ha fatto? Scusa. La volgarità. Ma che ha fatto? Era uno scherzo. Era uno scherzo. Cosa sono io? Ma era uno scherzo. No, non vedo che sono un imbecille, un invertebrato. Perché? Come non ti rispondere mai così davanti? Ma cosa? Ma è uno scherzo? Parenzo, lo vuoi ripetere questo scherzo, per favore? Cioè, cosa si deve fare per non sentire qualche parola di troppo? Semplicemente semplicemente cambiare, deve semplicemente cambiare stazione. Benissimo, ma la questione, bravo, non è la volgarità. Sì. La questione è gli insulti gratuiti alle persone. Ma quale? Dove? Ieri sera aveva dato del cretino, sì, signore. Assolutamente. Sai quante volte lo danno a me del cretino? Scusi, maresciallo, sì, scusi, scusi un attimo. Beh, sì, ragioniamo. Ha detto bene. Appunto. Cioè, lei è maresciallo? Sì, maresciallo. Sì. E che cos'è? Capisce subito. Che cos'è? Mi dica, Parenzo. Senta, maresciallo, giusto per capirci un attimo. Sì. Non ho capito perché se la gente chiama e mi dà del cretino, come no, invertebrato. Non le ha dato del cretino. Come dice maresciallo, mi scusi. La volgarità. Maresciallo. Lui dice, non è imbarazzante. Maresciallo, quello che c'è di imbarazzante è quello detto col massimo rispetto per le autorità politiche, civili e in questo caso anche militari, sì, è quello che dice lei. Cazzo, no, punto esclamativo. Perché, no, con tutto, no, rispetto sempre per le stesse autorità, il seggiolino, la corda elastica, il tubo di scappamento, ma di che cosa sta parlando? Scusi, si chiama ironia. Ma non... Se lei va anche su, se non ha un dizionario, va su Google, anche su Wikipedia semplicemente, e scrive la parola ironia, poi mette cerca, sì, avrà un computerino, no maresciallo? Mette cerca e trova la definizione di ironia, no? Dal greco antico aironeia, ovvero, capito? Quindi ha come base e scopo il comico, il riso e il sarcasmo. Ha capito o no? Ma zero. Zero, benissimo Nicola, grazie. Alfredo da Taranto. Alfredo, un altro maresciallo abbiamo? Avevo capito che Parenson stava scherzando. Sì. Invece non stava scherzando e sono d'accordo con Cruciani, sì, quando dice che Battiato ci mette la faccia, ma mette una faccia tosta a sostenere che lui farà l'assessore agli spettacoli, sì, e non alla cultura. Non era necessario Battiato per ottenere questo risultato. Quale risultato? Quello di sentirci dire che lui organizzerà gli eventi in Sicilia. No, un nome come Battiato si deve spendere per fare qualche cosa di più. E non è una giustificazione sana, giusta, sì, la sua, sostenere che siccome è impegnato non lo facesse l'assessore, anche se non deve prendere nulla. Bravo, bravo Alfredo, le do ragione. Allora, se non deve prendere, sì, nulla, ci saranno altri disponibili a farlo come si deve senza prendere nulla. Bravo, bravo Alfredo. Vabbè. Allora, intanto un altro signore, Gianluca, ci scrive: ritengo che questa sera il signor Parenzo abbia esagerato. Invece di legare il seggiolino auto di mia figlia fuori dalla macchina, come da voi suggerito scherzosamente, cambio semplicemente stazione radio. Grazie, buonasera da Gianluca Losi, che ovviamente non sta cambiando stazione radio e non l'ha cambiata, però a questo punto vorrei che Parenzo completasse il suo, no, ragionamento. Allora, cosa bisogna fare se uno non vuole fare ascoltare delle brutte parole ai bambini che sono in macchina? Dai un, beh, ultimo suggerimento, dai, su, andiamo sì, fino no, in fondo. Voglio pensare, ci sono anche altre alternative. Per esempio, cari ascoltatori, su, cari ascoltatori, prendete, voi siete di notte, state percorrendo il grande raccordo anulare, una, no, di sera, di sera, sì, di sera, notte, una qualsiasi strada ad alto altissimo scorrimento. Sì. L'ipotesi che vi propongo è questa: fermatevi senza mettere le quattro frecce e senza segnalare che state accostando. Già questo potrebbe essere un ottimo suggerimento. Quindi ad altissima velocità voi accostate senza segnalare che state accostando. Sì. Frenate di colpo, frenate col freno a mano, anche se piove, soprattutto freno a mano, così frenate. Fermate la macchina, qualora ancora non vi fossero alcuni danni, prendete, sì, il seggiolino del vostro bambino. Questa volta però lo legate molto blandamente sopra il tetto della macchina. Lo legate con delle corde, sì, certo. Delle corde di cotone molto, sì, molto sottili. Sì. Risalite prontamente dalla macchina. Sì. Quarta, sì, acceleratore 220 all'ora senza i fari accesi. Risultato sicuro. E poi naturalmente radio no, a manetta. Sarà a San Dio, la radio deve già essere accesa a palla, a manetta. In questo modo state sicuri che i bambini non sentiranno nessuna parolaccia. Adesso telefonerà il telefono azzurro, allora criminale si chiama, lo ripetiamo ancora una volta, ironia. Vabbè, non c'è bisogno che lo specifichi. Traffico 00 24. La Zanzara è la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza, è la zanzara. Giuseppe dalla provincia di Padova, che lotta questa sera, che battaglia! Giuseppe dalla provincia di Padova. Buonasera. Vada. Beh, devo dirle che questa sera mi avete tirato sull'umore. Meno dopo male. Un pomeriggio di lavoro. Meno devo male. Semplicemente ringraziarvi, è stato molto interessante sentire sì. i vari commenti, è stato interessante sentire Parenzo, è sì. stato interessante sentire l'onorevole della Lega Borghezio con la sua sì. difesa del Ku Klux Klan. Beh sì, diciamo una piccola difesa ha fatto del Ku Klux Klan. Fra poco riascolteremo tutto qui la zanzara, non ve ne andate, c'è bisogno sì di fare un'operazione, quella che ha suggerito Parenzo prima, perché sono parole abbastanza pesanti. Dunque prendete i vostri figli, attaccateli fuori dal finestrino con il loro seggiolino, stringete forte ma non troppo, acceleratore al massimo, radio a palla e via sull'autostrada, magari senza fari. Allora Giuseppe? No, niente, credo che ci voglia un po' di ironia comunque nella vita, e tutto sommato c'era anche dell'ironia nelle parole di Parenzo, forse un po' pesantucce, però un ma po' l'aveva di difesa, già detto mille volte, ma è la prima volta che sentiva questa cosa qui. Un po' di difesa di Parenzo stasera, forse perché sono di buon umore, mi sentirei anche di farla. No, in ma ogni scusi, caso, ma secondo lei è una persona di buon senso? Com'è? Secondo lei, una persona di buon senso sì. può pensare di andare a fari spenti cioè può anche solo accettare il suggerimento, ammettiamo che io non fossi ironico, ma secondo lei, adesso vado ai matti, una persona di buon senso può accettare di mettere il seggiolino del bambino sopra il tetto della macchina una e poi sfrecciare a fari spenti? Senta la logica. Una persona di buon senso cambia canale. Ma di cosa? Vabbè, allora? No, dicevo che una persona di buon senso cambia comunque canale. Sì, in ogni e infatti caso... lei è rimasto lì. Lei allora non è una persona di buon senso? No, in no, questo momento sto parlando con voi, per cui... non è una persona di buon senso, su. Giusto concludere la telefonata sì. Un'altra cosa, credo che la cultura si faccia anche ascoltando sì. Interventi. E chi ha detto che vuole fare cultura? Chi ha detto che noi vogliamo fare cultura? Com'è? Chi ha detto che noi vogliamo fare cultura? Scusi, no, mi fa orrore la sola parola cultura, come diceva l'amato da altri, naturalmente, l'amato Goebbels. Cosa diceva l'amato Goebbels? Amato da altri, Goebbels. Quando sento parlare di cultura, Parenzo, aggiungi tu? Purtroppo quella buonanima no. Quindi, come si potrebbe vabbè, dire, dai, su, non fare lo schizzinoso, sua. Dai. Metto mano alla pistola, diceva. Capito, caro Giuseppe? Scelte di vita, per l'amor di Dio. Assolutamente, scelte di vita, non c'è dubbio su questo. Non c'è. Quando sento parlare di cultura, tac, metto mano. Caro Giuseppe, la ringrazio, basta che non sia... Pronto? Sì, mi dica. Basta che non sia una pistola, basta che sia una pistola rivolta verso se stessi ed è accettabile tutto. Beh, ma è una metafora, Giuseppe, è una metafora. Beh, caro Parenzo, ti ho fatto un regalo, ti ho fatto un grande regalo. Beh, guarda, contento perché... vedo che stai crescendo sì. e il fatto che appunto ci siano state queste elezioni americane importanti sì. quindi sono sì. sicuro che tu in questo finale di trasmissione, siamo su Radio 24, Radio Confindustria sì. Sole 24 Ore, sì. Napoletano eccetera, tu sicuramente avrai invitato persona autorevolissima a commentare il risultato delle elezioni americane, un analista immagino politico internazionale. Beh, non c'è dubbio. Krugman, ad esempio, è bellissimo. Krugman, ottimo la zanzara. Krugman. No, non c'è Krugman. Non c'è no. Krugman. Una allora, bravo. Francis Fukuyama. No. È bravissimo. Ma assolutamente. Un saggio meraviglioso. Fukuyama, guarda, meraviglioso. Una persona ha scritto sì. di un'altra persona che adesso è in collegamento con noi. Sì. Un tweet pochi istanti fa, molto, molto bello. Quando leggi un suo tweet. Sì. Quando leggi un suo tweet. La giornata diventa immediatamente più bella. Beh, siamo... Ci sono Fukuyama effettivamente... Non va su Twitter, sono Fukuyama. Neanche... No. Flavia Vento, buonasera a tutti. Come sta? Allora, io leggo bene, solo una cosa. Voi? Bene, molto bene, molto bene. Allora, senta, mi dica una cosa, cosa ha scritto ieri sera su Ballarò, perché che è bellissimo. Devo ma cosa dire sa che... cos'è Ballarò? La ma l'ha visto ieri sera Ballarò, ma perché no. Non può vedere Ballarò la signora Vento, scusi. Ballarò è un talk show politico, mi scusi, dica, ogni volta mi dica devono... sì, la ma devono attaccare. Il signore ogni sera mi deve dare contro, non so. Ma chi dare contro? Vabbè, allora, Ballarò, sa che cos'è Ballarò? Ballarò è un talk show e l'ha visto ieri sera, non fare il credito. L'ha visto ieri sera. La conclusione, come Ballarò dire... è un talk show politico. Ieri sera ho visto che Ballarò, insomma, mi sembra un programma di peracottari, visto che parlano soltanto di IVA e IRPEF, ma poi alla fine parole, parole, parole, ma i fatti dove sono? Nel senso che poi forse alla fine ha ragione Grillo, nel senso di dire che... Sì. Questi talk show sono pilotati e parlano solo, però alla fine la gente si muore di fame, quindi... Hai capito, Parenzo? La gente muore di fame, ma cosa sta dicendo? Ma scusa, il tweet era così, ma aspetta. Ma cosa sta dicendo? Aspetta. Questa è volgarità, non le parole, queste sono cose che i bambini non devono sentire, anche educativamente. Allora, Flavia Vento voleva dire, io la difendo a spada tratta, voleva dire una cosa molto semplice, fa bene Grillo a proibire, cioè a dire ai suoi, se volete stare con me, non andate in questi talk show, giusto, signora Vento? Sì. Sì, vabbè, io non faccio parte di nessun movimento politico. Però ne vuole far parte. No, io ho soltanto detto siamo in democrazia, che tifo per Grillo. È molto diversa la questione. Io ho detto che tifo per Grillo, non mi voglio candidare, non voglio sgomitare, non voglio salire in nessun campo. Ho soltanto detto che tifo salire per Grillo e mi piace molto. Quindi siamo in democrazia. Certo, e, questo non c'è dubbio. Il signore che sta dall'altra parte, Parenzo, uno non sì. mi conosce. Signor Parenzo, non si chiama. Non conosco lui. È bruttino. No, ho capito, però uno non mi conosce. Sì. Secondo non sa chi sono, ma non mi ha mai conosciuto, come fa a giudicare una persona? So siamo in democrazia, io, ma che lei è un dittatore. Lei è un dittatore. Siamo in una dittatura, che cosa fa lei? Mi denigra così senza sapere... Innanzitutto sono una signora e quindi portiamo rispetto verso le donne. Signora, tu, e secondo voi, sì, sono una signora, mi scusi, sono una ragazza, ho 35 anni, sì, lei perché si permette a denigrarmi così? Male, famiglia, va benissimo, ma che denigro, non ma denigro che cosa vuole da me? Ma perché mi deve parlare così? Ma chi la conosce? Ma io contesto le fregnacce che scrive e dice. Ma che le fregnacce quali sono? Ho 16.000 persone che mi seguono, ma che Dio, c'entra? Ma anche Gaspare ma ne ha 8.000. Ma quante persone che le seguono? Nessuno, quante credo. Ho 18.000 persone che mi seguono, ma cosa c'entra? Non lo so, ma perché si deve accanire contro di me? Chi ma la non è conosce? Che mi accanire, ma chi rendo è conto, lei? Mi rendo conto, ma chi è lei? Non chi sono io sono uno che collabora con Sor Cruciani, le giudico quello che lei scrive dai suoi meravigliosi tweet, giudico quello che la vedo ogni tanto in televisione che viene messa dentro una cassa, una cosa di dietro. 12 anni fa lavoravo, ma sì, era un programma televisivo, ma lo vede che lei è un grandissimo cafone, quello era un programma ignorante, televisivo ignorante. Dove io facevo 12 anni fa parliamo, lei cosa lei sa fa, ma cosa lei sa della mia vita, ma chi è lei? Non sa nulla, non sa nulla, non sa nulla, chi non è sa lei? Nulla. Non si è informato, non si è informato. Io vado a fare volontariato nei canili che mi batto nei per canili. Per i più deboli. Ma perché nei canili bisogna fare volontariato? Però scusi, siamo a vento, perché aspetta, fermatevi. No, fermi qualcosa, non si fa volontariato nei canili, basta. Perché no? Perché ma no? Non è possibile, no, perché i cani non hanno un diritto, mi scusi. Io sono anche vegetariana. E anche vegetariana. Scusi un attimo, signor Vento. No, io nessuno. Ma perché lasci passare che fa volontariato? Il signore che continua a attaccarmi in questa maniera. Vabbè, perché, ma chi è lei? Perché legge dei messaggi e pensa che siano tutte stupidaggini. Vabbè, ognuno potrà pensare quello che vuole. Beh, se uno parla che è contro le droghe, contro le guerre, sono stupidaggini. Non mi sembra contro mi le guerre, il signore, non io. Scusi, signor Vento, lei ha scritto un'altra. Contro le guerre, aspetta. Ma io la brividisco. Vabbè, perché quindi le guerre devono esistere. Quindi è bello che i ragazzi di 20 anni muoiano in guerra, perché è giusto, ma cosa so, sta facendo diventare guerrafondaio Parenzo, eh. Ma allora un attimo, signora Vento, un attimo solo, lei però ha scritto una cosa fondamentale. Stavo pensando così naturalmente, ma i soldi chi li ha inventati? L'uomo, i soldi esistono in natura? No. Cosa sono? Pezzi di carta. Che vuol dire i soldi sono pezzi di carta? Scusi. La verità è i soldi sono pezzi di carta. Ho capito, ma faccio, guarda, sbatto il telefono in faccia. Che vuol dire? Cosa sono i soldi? Che cosa ha fatto? Ha abbassato il telefono, Parenzo. È impazzito. È impazzito. Torno tra un attimo, la richiamo tra un secondo. L'abbiamo eliminato, vedi? Si è eliminato da solo. C'è la borsa, torno tra un secondo, la richiamo subito. La zanzara. Ha vinto Obama perché ormai l'America è meticcia, quindi si sono scelto uno dei loro, quindi è multiraziale, ha vinto questa America qua, che mi sta un po' sul cazzo, ho detto così, usare un termine diplomatico e raffinato. Siamo di nuovo alla situazione un po' come era per Clinton, no? Un emerito coglione che improvvisamente diventa un grande personaggio, questo era un avvocaticchio che si occupava dei diritti dei neri, di cui che non lo cagava nessuno, e poi improvvisamente diventa un personaggio importante e viene portato il sacco sul piedestallo per fare i burattini, evidentemente dei grossi interessi, delle lobby che sanno. Quindi sono stati un po' esageratini, questo sì, un po' esageratini, questo sì. Però difendere, perché da quello che si sa, ecco, poi magari sono calunnie, hanno adottato, diciamo, delle misure, però la filosofia del differenzialismo che sta alla base, diciamo, di questa resistenza che c'è stata nei confronti, diciamo, della società multiraziale, all'epoca, io sarei stato sudista, diciamo, dei più sfegatati. Parlava del KKK, Ku Klux Klan, l'ho detto in italiano, è KKK. Caro Parenzo, dove sei? Parenzo è allibito e vuole chiedere alla signora Vento, sì? alla signora Vento. E come la devi chiamare, ancora? Scusa, che la devi chiamare? No, signorina. Certo, signora, la ottima signora analista Vento, che non è parente, ma non fare lo spiritoso, dai, non fare lo non spiritoso. È parente del grande ambasciatore, sì. Chiedere semplicemente questo: visto che lei considera i soldi dei pezzi di carta, come mai e quanto ha incassato per fare quel programma a costi di grazie moltissime che si chiama L'Isola dei Famosi, visto che considera i soldi dei pezzi di carta, la signora analista Vento? Allora, rispondo subito. Sì. È pronta la mia risposta? Vada. No, tremo. È sicuramente pronto? È prontissimo, vada. Allora, tremo. Io all'Isola dei Famosi sono stata esattamente 10 giorni perché mi faceva schifo quel programma. Sono andata via, non ho preso neanche una lira da quel programma. Vabbè, qualcosa avrà guadagnato. Perché non mi piace un reality dove praticamente è mercificazione delle persone che stanno lì a soffrire di fame, sì, per 2 soldi. E io me ne sono andata 2 volte. Dopo 10 giorni non ho preso una lira. Ma lei vorrebbe vivere senza soldi? Quindi, allora, i soldi innanzitutto in natura non esistono, quindi il mio pensiero è un pensiero, sì, talmente profondo. Veramente profondo, sì. Scusate, cioè, i miei cani che abbaiano. Quanti cani ha lei, signora Vento? Quanti cani ha? Quanti? 7. 7 cani. 7 cani. 7 cani e manco un fidanzato? No, guardi, i fidanzati mi hanno veramente stufato, non servono a niente, non voglio finire, insomma, moglie di un perché lei li mette in discussione i fidanzati, è talmente intelligente che rischia di metterli in crisi. No, perché non faccio la finta tonta moglie a casa cornuta, vado al di là, quindi sinceramente... 7 cani? Ma come fa a gestire 7 cani? Ma chi ti frega? Ho 7 cani, io amo gli animali, no, per carità, veramente, ma non come tante niente. Deputate che fanno l'ambientalista, l'amante degli animali, e non mi fate fare i nomi. Beh, ce n'è una soprattutto, la signora Brambilla si chiama, Vabbè, non so, non li voglio sapere questi nomi, li so dentro di me ma non li dico, comunque io... Vabbè, ma un'amica... Senta, ma lei ha scritto... Per rispondere ai pezzi, sì, di carta... I pezzi di carta, insomma, sì, certo. Vi vorrei far ragionare un po' tutti. Ragioniamo, sì, ragioniamo. Volevo dire... No, ma che ragionare? Non usi parole inappropriate, no, usi parole invece che... ragionate tutti. Sì, allora, in natura, ragioniamo. innanzitutto i soldi sono stati messi in commercio nel 1600. Certo. Comunque, detto questo, prima esisteva la legge del baratto. Ah, lei piace? Allora, lei piace il baratto? Il baratto? Sicuramente sì, ma se vogliamo analizzare che tutti sono, insomma, in questo mondo materialisti e vedono soltanto le grandi firme, cioè sì. Sei figo, sei una borsa di Vuitton, sei uno sfigato se non ce l'hai. Ma che c'è? Vorrei analizzare appunto la materia con l'antimateria, cioè parliamo di antimateria. L'antimateria secondo me è più intelligente della materia, no? Ma lei è gravissima, è in una condizione gravissima. Ma perché, scusa? Io veramente la ricordavo con gioia quando stava almeno zitta e chiusa dentro una scatola trasparente con Sir Mammucari, e quello era perfetto perché era lì buona, zitta, chiusa. Ma lo sai che c'è... Mi scusi, ma lei è anti, insomma, contro le donne? Ma che c'entra? Ma anche contro le donne, anzi, non sono contro le donne. Ce l'ha una fidanzata, parente. Sì, ce l'ha una fidanzata, ce l'ha. Una anzi, ma quando io sento le sue inappropriate, ma io mi vado ai matti quando sento che la prendiamo seriamente. Il signor Cruciani, che è persona alla fine buona, la considera una persona normale, questo è il punto. Serie. No, certo, assolutamente. Ma io sto parlando, cioè, Cruciani la considera una persona normale, la tratta come tale, capito? Questo è il problema. Scusi, l'antimateria significherebbe non avere più il potere, quindi non ci sarebbero più guerre. Hai capito? Le guerre sono fatte per l'antimateria. Sì. La materia, certo. Bisognerebbe votare l'antimateria. Ma che vuol dire votare l'antimateria? Guarda, se avessi uno sciacquone sotto mano. È che non ho, purtroppo, adesso chiedo qui se c'è un bagno, guarda, sono andato. Scusi, salve. Ma sa qual è il suo problema? C'è un bagno, scusi, salve. Andiamo. Allora, posso dire una cosa? Sì, sì, dica. Sa qual è il problema di questo signore? Che il signore si fa figo usando e parlando di me. Questa è una cosa triste. Sì, sì, fa un po' lo sbruffone, fa un po' lo sbruffoncello. No, guarda, sto andando al bagno per tirare l'acqua. È molto triste, sì, è molto triste. Molto... Però scusi, lei una volta fu candidata per la destra di Storace. Allora, ancora questa cosa, ci sono politici che sono andati, si sono fatti tutta l'Italia, destra, sinistra, centro, nord e sud. È contrario alle coppie gay? Ha detto una volta di essere contrario alle coppie gay? No, non ho mai detto questa cosa, poi insomma in questo vabbè, momento comunque, non lasciamo parlare di queste comunque. Cose, quindi devo andare a cena. Ecco. Per carità, lasciamo questi andare a cena. Io però, aspetta. Non posso stare ormai. Senti l'antimateria, senti. Sì, dimmi. Ecco. Guardi, mi scusi, lei dovrebbe leggersi un po' di Torah. Di Torah, la Torah, hai capito? Ma non dica cose che non sa. Perché no, sennò io ritiro l'acqua ancora. Mi scusi, sto studiando talmente tanto che forse lei, insomma, vedo che è molto, non so come dire, forse secondo me c'ha qualche problema neurologico. Il tweet di oggi qual è, signor Avento? Che io ormai non posso stare senza i suoi tweet. Il tweet di il oggi tweet qual è? Di quello oggi su Ballarò, era... lo ripeta, quello su Ballarò, che è eccezionale. No, a parte i peracottati di Ballarò, avevo detto che la destra mi vuole far sembrare un topo in mezzo a giraffe, ma io non sono un topo. Né uno struzzo né un pavone, sono un'aquila. A domani, grazie. 20:42 800 24 00 24. Ancora, basta questo sciacquone. E il saluto. Grazie, signor Avento, un abbraccio. Sì, buona serata. Buona a tutti, serata. Anche al signore, mi raccomando. Parenzo, che faccio stare la sua moglie, la faccia divertire. No, fidanzata, la moglie è un altro discorso. 20:42 Gianfranco della provincia di Siracusa. Pronto? Dica. Pronto? Sì, vada. Pronto, mi sente? Sì, la sento. Allora, volevo dire che... Pronto? Oddio mio. Se lei ripete ancora una volta pronto, la casso definitivamente. Mi sente? La sento benissimo. Benissimo. Allora, dicevo, da siciliano, facevo questa considerazione. Abbiamo avuto ministri alla giustizia che non avevano alcun rudimento di giurisprudenza. Abbiamo avuto ministri alla pubblica istruzione, sì, che non capivano niente di organizzazione e hanno fatto guai in tutto. Ministri alla sanità che non erano medici. E io trovo che avere un assessore, che sia assessore allo spettacolo e che sia un uomo di spettacolo, è una cosa incredibile, meravigliosa. Se questo uomo poi non prende neanche lo stipendio, mi sembra un valore aggiunto. Uno. Un'altra cosa, io sì, trovo che voi giornalisti dovreste, diciamo così, mette in un dimenticatoio gente come Borghezio, che dopo la stronzata che fece andandoci treni a disinfettarli, sì, perché c'erano gli ex comunitari, sì, dovrebbe essere dimenticati, messi da parte e morire da parte, perché è gentaglia. Questo Gianfranco, le dico una cosa, politica. Più persone mi chiamano dicendo che Borghezio mi fa schifo, è un orrore, eccetera, eccetera, e più io lo chiamerò, questo è evidente, no? Borghezio, che io ripeto, è un essere inutile, è veramente un essere inutile. Però detto questo, basta, non ne parliamo più, perché non ne parliamo più. Tu l'ha sentito prima, come Borghezio, perché è talmente piccolo e talmente stupido, sì, che sì, magari sta a ascoltare e fa il giro delle radio per sentire quante radio, quante trasmissioni parlano di questa sua stronzata. Invece deve essere messo da parte, dimenticato, basta, via. Grazie Maurizio dalla provincia di Latina. Io trovo, sì, mi dispiace che lei, una persona intelligente, abbia attaccato il fatto che Battiato abbia accettato. Guardi Gianfranco, io non ho attaccato Battiato in quanto Battiato, io ho detto semplicemente che uno o fa l'assessore oppure fa l'uomo immagine in giro per la Sicilia, punto e basta. Se fai l'assessore, non è che sia una cosa strana, fai l'assessore al turismo, allo spettacolo, alla cultura, non è che dici no, la cultura non lo posso fare perché mi prenderebbe troppo tempo, invece faccio il turismo e lo spettacolo come se fossero delle cosette, perché devo fare le cose mie. O lo fai seriamente o non lo fai, questo a prescindere dai meriti, dal fatto che prima ci fossero i ladri o persone non particolarmente adatte, a prescindere dal fatto che prende i soldi o non prende i soldi. Cioè, uno o fa l'assessore oppure non lo fa. Questo è il punto, non è che ce l'ho con Battiato, a me non me ne frega niente di Battiato, mi piace pure come cantante, però io ragiono: vuoi fare l'assessore? Allora lo fai a tempo pieno. Non vuoi fare l'assessore? A casa, cioè, fai quello che fai che hai fatto fino adesso, cioè dire il bravo artista Maurizio dalla provincia di Latina. Non mi sembra un ragionamento così folle, è un ragionamento lineare. Pronto? Che qualsiasi persona può comprendere tranne Parenzo e lei, evidentemente. Maurizio dalla provincia di Latina. Buonasera Cruciani. Vada. Io vorrei parlare un attimino con Parenzo, perché se date dei consigli dateli bene, perché io non capisco, forse ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Mi non dica, mi dica. Io ho provato a mettere la bambina sul tettino della macchina, l'ho, sì, anche legata con una corda sottile, sì, ma non mi ci sta. Mi cominciano a dire: Cruciani, aiuto Cruciani, c'è, cioè, qualcosa che non quadra. Cioè, vuole fortissimamente sentire la zanzara, dice lei? È per forza, perché lì sul tettino non ci arriva, anche se io tengo la radio a palla, non ci arriva. Il volume non arriva, lei dice, no? Non arriva lì, non arriva. Parenzo, come possiamo fare? Guardi, le do un consiglio molto pratico, non metta il seggiolino, forse l'errore è stato quello di mettere il seggiolino. Cioè, come deve fare, scusa? Forse quello. Cioè, la deve legare del tetto, allora. La deve legare a pelle, scusa, a pelle. Benissimo, no, siete dei grandissimi. Come no, la deve... forse a pelle no. Ciao, grazie. Ciao, Maurizio. Grazie. Traffico. La zanzara. Well now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God will be here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. Pronto? Consigliere Galli? Sì, buonasera. Chi parla, scusi? Sono Cruciani, Radio 24. La disturbo? In questo momento sono alla redazione del cittadino, che stiamo leggendo i promessi sposi. Le posso chiedere perché ha scritto quella cosa su Facebook? Ah, quella famosa lì, ma sì, guardi, forza Etna, forza Vesuvio. Sì, ma guardi, è una, non lo so, io ho già fatto una semidichiarazione ufficiale, nel senso che è una, cioè, uno scherzo, una goliardata. È una goliardata, non sa, è... lei è consigliere provinciale della Lega, ha un ruolo istituzionale, scrive forza Etna, forza Vesuvio, non so, no, che altro, su internet, non è proprio una goliardata. No, vabbè, cioè, in che senso lo intendeva, scusi, me lo può spiegare? Vabbè, allora, è uno scherzo innanzitutto. Vabbè, sì, io ho preso il meccanismo, penso che poi l'abbiate capito, perché se siete più pratici di Facebook di quanto non sia io, può darsi, probabilmente. Sì, può darsi. Cioè, io ho copiato, ho preso un post un po' ridicolo di questa strana Italia con... sì, certo. Che diceva i confini, eccetera, eccetera, che vabbè, che l'ho copiato e poi vabbè... E ha tolto il meridione. No, non l'ho tolto io, era già così. Io ho visto questa immagine e ho detto, ma te, metti da su, no? Lei è piaciuta questa immagine? E perché poi sono i confini, vabbè, è scritto i confini. Insomma, è piaciuta un'Italia spezzata a metà, con quella parte, ma, il sud non, sprofondato, no, diciamo. No, allora, un'Italia spezzata a metà, lo sa benissimo che è la mia filosofia, perché se no non sarei della Lega. Ma non con il sud sprofondato, cioè quello, vabbè, cioè che io... che io è l'ultima cosa che vorrei, voglio dire. Vabbè, ho capito. Non voleva il sud, diciamo, sprofondato, no, dentro le acque. Esatto. Io ho ricevuto tanti messaggi che mi dicono questa cosa: tu vuoi fare tragedie, vuoi fare sciagure? Assolutamente. Cioè, l'ultima cosa, io ho tantissimi amici al sud, e cosa faccio? Auguro ai miei amici di sprofondare, ma adesso. Quello no, però, signora Galli, lei è consigliere provinciale, non può poi fare quel posto dove c'è scritto viva Forza Etna, Forza Vesuvio, che vuol dire? Ma cos'ha? È diverso da una persona normale, un consigliere provinciale. Cioè, io vorrei un po' sfatare anche questa cosa. Beh, insomma, voglio dire, se allora uno può dire quello. Avranno diritto di scherzare, insomma, no? Beh, ho capito, ma uno che dice Etna e Vesuvio, cioè lei... sono i vulcani d'Italia, sono delle potenze, sono dei bellissimi vulcani, li ho visitati tutti e sono molto carini. Ho capito, se lei dice Forza Etna, Forza Vesuvio, tutti quanti capiscono, tutti capiscono che lei dice Forza Etna. Scusi un attimo, quando lei fa Forza Etna, Forza Vesuvio, significa che lei si augura che questi vulcani eruttino e dunque provochino dei danni oggettivamente, o no? Poi ma, è un'espressione. Lei non ha mai sentito quella famosa barzelletta di Aladino, della lampada di Aladino, in cui c'è il famoso, ci sono i famosi tre desideri? Cioè, è entrata nelle orecchie tantissime volte. Cioè, qual è la barzelletta? Scusi, probabilmente me l'ha raccontata in Sicilia. La barzelletta era, dunque, c'è la lampada di Aladino, non sono capace di raccontarle. Comunque, vabbè, poi se la inizia, come finisce? Allora, il primo desiderio, qual è? Che il meridione, cioè che il sud, la Teronia, noi la chiamiamo così, sì, no? La Teronia profonda di tutta. E poi il secondo desiderio è che riemerga, sì. E allora il Aladino dice, cioè il genio della lampada dice, ma che cavolo fai, mi fai tirare su, poi tirare giù, e poi c'è il terzo desiderio in cui sprofonda di nuovo. Ma non la sa questa barzelletta? No, qua, non lo so, non lo so. Sono 30 anni che è in giro. Ma io sono romano, sa, non è che so queste cose della... quindi lei cos'era, nella parte sprofondata o nella parte fuori? Sono un po' al limite, capite? Sono un po' al limite. Roma, vabbè, si salva o no? La voglio dire, su queste cose si scherza. Beh, scusi, ecco, no, le dico, quando cosa, lei voleva fare, cosa, voleva scrivere Forza Etna, Forza Vesuvio, che significa? Una cosa mi ha urtato. Cosa? Glielo dico, posso dirlo tranquillamente. Come no? Che quando si scherza, sì, e si tirano delle cattiverie contro i lombardi, contro il nord, noi ridiamo e non ci è permesso assolutamente di eccepire. Quando le cattiverie, diciamo cattiverie, sono le barzellette un po' pesanti, vengono tirate contro il sud, ragazzi, sembra quasi che noi vogliamo uccidere tutti, siamo razzisti e compagnia. Non sono io la razzista, non è quello lo spirito. Ma lei si augura davvero che l'Etna erutti? E il Vesuvio erutti? Allora, io mi auguro che l'Etna erutti in questo senso. Quando in sono andata senso? A visitare l'Etna, la guida che mi ha accompagnato sull'Etna si è augurato che l'Etna eruttasse per poter avere i turisti. Per cui, allora, ma lei non lo diceva in questo senso? Ma lei non lo diceva in questo senso? Ma lo dicevo per scherzo, io, ma scusi, ma lei secondo lei è una persona sana di mente? No, cioè, ovviamente no, e questo è il punto. Scusi, cioè, ma da nessun punto di vista, se anche fossi una persona estremamente cinica, non avrei nessun interesse nel far succedere una disgrazia nel meridione, perché, come lei ben sa, poi le spese della ricostruzione chi le paga? Noi. Perché ci vengono messe le accise su tutto quanto, paghiamo ancora le accise del Belice. Ma qualcuno le ha chiesto di dimettersi, mi sembra, no? Per questa e qui, faccia, cioè io non, senta, lei io non si dimetterà non mai, ritengo questa... di aver fatto nulla di male, nel senso che ho detto una barzelletta, ma ha cancellato una parte della penisola postando su Facebook un'Italia tagliata a metà, ha scritto Forza Etna, Forza Vesuvio, più di questo che deve fare? Deve sparare con la pistola? E appunto, voglio dire, mi avete accusato di violenza. No, di violenza, sembra... violenza verbale un po' sì. Di violenza verbale un po' sì. Ma per amor del cielo, se avessi detto Padani, prendiamo i mitra e andiamo a sparare, allora capisco. Ma, cioè, ma lo sa, nel linguaggio popolare, spesso in alcuni ambienti del nord, quando si dice Forza Etna, Forza Vesuvio, significa che, insomma, voglio dire, no, cancellate un po' di sud, questo è il punto, o no? Sì, vabbè, ma non fisicamente, cioè, e come, in che modo? È una cosa figurativa. Cioè, allora, quando diciamo attacchiamo i rimorchiatori e trasciniamo la Sicilia in Libia, cosa, cioè? Ma sinceramente, no, adesso le sto parlando molto sinceramente. Era uno scherzo. Vabbè, è uno scherzo e sono ma si è pentita o no? Si è pentita o no lei? No, perché per me rimane uno scherzo. Rimane uno scherzo, allora... non si pente e non si dimette. No, perché per me è uno scherzo, cioè, non vedo perché mi devo... Se vogliono che mi dimetta, non lo so, ma non per questo scherzo, magari c'era qualche altro motivo, se ci sono degli altri motivi più seri va bene, ma questo qui è uno scherzo per me, per va bene, mio. La ringrazio no, molto. Se vuole le posso dichiarare che io sono stupita dalla terribile... Dalla reazione. Così spropositata. Grazie mille. La ringrazio lei, grazie. Buonasera. Ci sentiamo domani, 18:30.